Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Le montagne comunque erano sempre lì, anche solo una foto attaccata alla parete, una rivista da leggere. Poi è arrivato finalmente il lavoro e gli orizzonti si sono allargati, non più solo le Alpi, ma le Ande, l'Himalaya e i deserti. I viaggi solo sognati piano piano sono in parte diventati realtà. 2 anni fa però la diagnosi, il medico aveva appena pronunciato le fatidiche parole. Ciao, sono Elisa Davini, ho 47 anni, vivo a Viareggio. Di solito capita quando ti allontani, ad esempio quando sali su una barca, ad esempio, quando molli gli ormeggi e esci dal porto. Dopo un po' che sei fuori, a un certo punto ti volti e vedi la città dietro di te. E all'improvviso ti accorgi che sembra ordinata, vista da lì. Tutta la costa, tutta la terra sembra ordinata. Vista da lontano sembra che si possa misurare, sembra che sia più comprensibile la terra vista dal mare. Le case, le strade, perfino le auto sono tutte al loro posto, quello giusto, l'unico in cui potrebbero stare. La terra vista da lontano sembra così bella che quasi ti fa venire voglia di mantenere quella distanza. Ti fa venire voglia di non tornarci, di starci lontano. È una cosa che succede, ad esempio, anche quando si prende un aereo, no? Soprattutto all'atterraggio. Mentre l'aereo sta scendendo in un posto che non conosci, dall'alto vedi tutte le strade illuminate, le piazze precise, delineate. Vedi le case, magari vedi anche qualche luce accesa nelle finestre. Quando sei lontano dalla terra, quando sei lontano dalla vita, no? Quando ci metti dei metri o degli anni tra te e quello che hai vissuto, tutto ti sembra molto più chiaro. Meno caotico, meno complicato. Tutto ha un disegno che prima non vedevi. Ecco, forse è per questo che per prendere le misure alle cose bisogna guardarle da lontano. Controllarne i contorni, vedere se sono dritte o storte, perché da vicino non te ne accorgeresti. Sì, perché le cose viste da lontano sono sempre più chiare, sono sempre più giuste. 349-238-6666 oppure voi siete qui, @radio24.it. Il racconto di oggi è un racconto molto particolare perché parla di montagna ma non parla di montagna. Parla di una scalata, mica di una scalata direi, perché sono oltre i 6.000 metri di una montagna himalayana. Però racconta molto di più, racconta di com'è vedere la propria vita a distanza di, in questo caso, 2 anni. E fa proprio riflettere sul fatto che spesso quando ci metti in mezzo del tempo o dello spazio rispetto al luogo in cui ad esempio hai vissuto per molti anni o rispetto a una situazione che ti è capitata qualche anno prima, ecco, quando a un certo punto ti accorgi che c'è quella distanza lì, tutto sembra magari non ordinato, però tutto sembra quasi avere una giustificazione. 349-238-6666 sul profilo Facebook. Oggi, quando raccontavo un pezzettino della puntata, perché di solito faccio questo, la mattina scrivo più o meno che cosa accadrà in puntata, oggi invece raccontavo proprio un piccolo pezzo del racconto di Elisa, e Cristina mi ha scritto: a me è successo quel momento lì, quello di vedere la mia vita vista da lontano, quando per caso ho trovato un mio amico che non vedevo più da anni e abbiamo fatto un baratto. Cioè, io avrei lavorato come barista per una scuola di teatro e in cambio potevo frequentare un corso. All'inizio sembrava un fatto avvenuto quasi per caso, eppure ripensandoci era una cosa che avevo ben chiara. Avevo bisogno di non pensare più alla mia relazione finita da poco ed è stato l'inizio di una nuova vita. Magari non è sempre così, magari quell'occasione non è sempre veramente l'occasione della vita, però vista da lontano invece è un po' l'ombra. È quello di cui parlava... non l'abbiamo usato perché vabbè, era un po' troppo facile, però in quel famoso discorso che tutti hanno usato e strausato nel momento in cui Steve Jobs è mancato, no? Nel discorso della Stanford University, oltre alla frase più famosa che era "stay angry, stay foolish", lui all'inizio faceva un altro discorso, parlava della vita come, sapete quei disegnini in cui si devono unire dei puntini? Ecco, è esattamente quella cosa lì, che quando ci sei dentro e sei vicino che i punti non li vedi e non capisci che senso hanno, poi li unisci, no? Come nella settimana enigmistica, 1, 2, 3, 4, e alla fine un disegno esce. Non so se un disegno c'è, questo non lo so. Non so se c'è un disegno, io non credo che ci sia un disegno disegnato da qualcun altro soprattutto, però alla fine quel disegno lì di solito ha un senso. 349-238-6666, sicuramente ha senso il disegno di Elisa. Le punte dei ramponi entrano scricchiolando nella neve ghiacciata. Con la mano immersa nella moffola in piuma ad alta quota, impugno la picozza che avanza con me. ad ogni passo lungo questa stretta e ripida cresta finale. Ed ecco che, quasi improvvisamente, arriva la vetta. Mi guardo intorno e vedo solo neve e montagne. Il cielo è limpido. Il sole si è alzato da poco e lentamente inizia a scaldare l'aria. Sono in Nepal. Sono in vetta ai 6.189 metri dell'Island Peak. È il 16 aprile del 2011 e sto piangendo. Non è solo la gioia del successo o la mancanza di ossigeno nel corpo. No. No, proprio oggi, 2 anni fa, per uno strano gioco di coincidenze, entravo nel Day Hospital di Oncologia dell'ospedale della mia città per sottopormi al primo di 6 cicli di chemioterapia. E ora sono qui. Beh, vale un bel pianto liberatorio, no? Ho iniziato ad andare in montagna quando avevo 5 anni. Ricordo ancora la prima vetta. Mio padre si era dovuto caricare, oltre al suo, anche il mio zaino, uno zainetto, anzi il tascapane, come si diceva allora, rigorosamente acquistato al mercato degli americani di Livorno. Era riempito di borraccia, maglia e un paio di panini. E lui era lì, tutto sudato, accanto a me. Mi indicava le altre cime che sbucavano dal mare di nubi che ci impediva di vedere la pianura. Non lo so, forse è nata quel giorno la passione per la montagna. Una passione che mi accompagna da più di 40 anni. Anche se ci sono stati periodi di forzato distacco, ovviamente, come negli anni dell'università, quando mi ritrovavo a studiare tutta la domenica, o quando all'inizio della professione, passando da un incarico all'altro e da una città all'altra, il tempo libero lo spendevo preparandomi ai corsi. Il posto in assoluto che io amo di più è la Valle d'Aosta. Diciamo, qualsiasi weekend libero è sicuramente dedicato alla montagna. Anche solo un giorno, anche solo due, alle volte anche quando piove, magari qui dietro abbiamo, dietro Viareggio abbiamo le Apuane che offrono tante cose anche d'inverno e anche quando piove, perché non sono montagne tanto alte. Le montagne comunque erano sempre lì, anche solo una foto, una rivista. È arrivato il lavoro e gli orizzonti si sono allargati. Non più solo le Alpi, ma le Ande, l'Himalaya, i deserti. I viaggi che avevo sognato sono diventati realtà. 2 anni fa però la diagnosi. Il medico aveva appena pronunciato le fatidiche parole. Ricordo che la stanza improvvisamente aveva cominciato a ruotare. Mi ero dovuta sedere per evitare di cadere per terra. E mi stavo dicendo, ok, ora salgo all'ultimo piano e mi butto di sotto. Non l'ho fatto. Ho affrontato il secondo intervento. E quando l'infermiera mi ha detto di pensare a qualcosa di bello per addormentarmi serena, io mi sono ritrovata ad immaginare di essere di fronte al Monte Bianco e sono riuscita perfino a sentire l'odore dell'erba, al sole, d'estate. Sono iniziati a cadere i capelli. Il giorno in cui, stufa di trovarli in giro per casa, mi sono passato l'aspirapolvere in testa. Ho deciso che era arrivato il momento di tagliarli completamente. Con il primo ciclo è arrivata la stanchezza, una stanchezza mai provata, una cosa impossibile da combattere. E volevo essere normale, e il fine settimana che precedeva il ciclo successivo mi ostinavo a provare ad andare in montagna comunque. Faticavo in un modo inaccettabile, su dei piccoli sentieri alpini, per poi ritrovarmi il mercoledì mattina ancora con le gambe indolenzite e la flebo al braccio. E il bello era che i dottori dicevano, guardi, lei può comunque fare una vita normale. Sì, però la mia normalità non era la loro, perché non è normale salire le 2 rampe di scale per andare in ufficio e fermarsi a metà per riprendere fiato. Il primo giorno che sono tornata a correre, dopo 8 mesi di inattività, ho vomitato dalla fatica. Ho dovuto accettare di non avere fretta, cercare di recuperare per gradi. Quindi inverno ciaspole e sci di fondo, estate trekking e qualche 4.000. So che dovrò convivere con la paura di ammalarmi ancora e non posso dire che la mia vita sia la stessa di prima della malattia. Ma non riesco nemmeno a dire che sia peggio. Diciamo che è diversa, in parte anche migliore. Tante cose sono diventate irrilevanti e tante hanno acquistato più valore. Un po' come i giorni come questo. Un momento bello sicuramente in tantissime montagne e quando sei al campo alto, quindi quando sei vicino alla montagna, che è la sera prima dell'escursione proprio alla vetta. E lì è bello perché c'è tensione, infatti col mio compagno tutte le volte ci diciamo basta, noi non possiamo continuare a soffrire così tanto per fare una montagna. Oggi sono in vetta a questo 6.000 himalayano, in questa splendida giornata di sole, con le lacrime che non smettono di scendere. È il mio quinto 6.000, ma questo vale molto di più di tutti gli altri. Abbraccio il mio compagno, di vita e di cordata, che da 5 anni condivide con me le cose brutte e belle, e mi ha sostenuto con una leggerezza e un'ironia meravigliose. Ci guardiamo e sorridiamo felici. La fatica che abbiamo provato nel salire sembra già un ricordo lontano. pochi minuti in vetta e dovremo iniziare la discesa. E ogni volta ci diciamo che è l'ultima volta che arriviamo così in alto. Eppure so che fra qualche ora, quando avremo superato le parti più impegnative, ci guarderemo e ci diremo: beh, qual è il prossimo? E ancora non lo so, ma so che oggi il mondo è sotto i miei piedi e che mi sento viva, perché sto bene, perché sono felice, perché sono qui. Without you, I would never rise. C'è un film che mi piace sempre guardare e riguardare. È American Beauty. Il film comincia, e finisce anche, con una ripresa dall'alto sui quartieri residenziali di una cittadina della provincia degli Stati Uniti. È una sterminata serie di strade squadrate e di villette, anche belle, tutto uguali. Un mondo perfettamente ordinato. Solo che quando lo sguardo, cioè quando la telecamera, la macchina da presa, si avvicina, le cose inevitabilmente cambiano. E quindi vedi tutto. Vedi matrimoni in difficoltà, adolescenze inquiete, rapporti lavorativi in demolizione, ex marine pseudonazisti con tendenze omofobiche, ma omosessuali, ricatti, ripicche, rimorsi, rimpianti, ma anche piccole, grandi soddisfazioni. E poi vedi ricordi, progetti, follie e innamoramenti. E poi scopri la bellezza. Insomma, la vita al suo peggio e la vita al suo meglio. Eppure, quando guardi il tutto da lontano, come nella prima e l'ultima scena, appunto, questo brulicare di fatti inopportuni e contraddittori scompare. E non si percepisce altro che ordine, serenità. Anzi, come dice lui, Lester Burnham, il protagonista, una specie di sedazione. Tipo come se ti avessero dato il Valium al posto del caffè. E allora, ogni volta che lo riguardo, quel film, mi ricordo il motivo per cui mi piace, per cui quello che mi interessa è anche andare a vedere le cose da vicino. È perché da lontano non si capisce molto. Sì, è bello, ma non si capisce niente. E quindi mi piace farmi raccontare la vita, ad esempio, da ogni singola persona, se possibile. Un episodio, semplice, della vostra vita. Che poi, in fondo, è un po' quello che succede a noi, no? Con le nostre singole vite. Cioè, le cose, quando le guardiamo da lontano, nel tempo, ad esempio, sono diverse da quando le abbiamo vissute, ovviamente. Ogni singola situazione, nel momento in cui la vivi, è staccata da tutto. È solo lì, è ora. È tutto. E non ha niente intorno. È tragica, è comica, è banale o eccitante, ma non c'è nessun disegno. La si vive e basta. Da lontano invece la si deve inserire in una storia, no? In una cronologia. Per cui devi dire: in quell'anno ho fatto questo, oppure in quel periodo mi sentivo così, oppure ancora quel giorno mi è successo quell'altra cosa, ma non mi ricordo neanche bene. E poi ci si ricorda cosa era successo prima e cosa era successo dopo. E magari non avrà la coerenza di una sceneggiatura di Hollywood, ovviamente, ma la struttura della storia della nostra vita si farà sempre vedere, si svelerà prima o poi. E tutto sembra più ordinato. Che le cose insensate quasi acquistano di senso. E a qualcuno può anche venire in mente che ci sia un disegno, ovviamente, dietro tutta questa serie di avvenimenti che compongono la nostra esistenza. Secondo me è un trucco della nostra mente per tenere insieme i pezzi. Succede a tutti, pure a me. È il disordine sentimentale, ad esempio, il disordine professionale che io percepivo 10 anni fa, ma anche 2 anni fa. Ora mi pare solo una tappa di un percorso molto chiaro. È solo che in quel momento non lo capivo. Succede, forse è un bene. Però ogni volta che faccio un errore, ogni volta che mangio il cioccolatino sbagliato, lo mangio qui e ora. E non c'è mai nessuna ragione che lo giustifichi. Stefano mi scrive: io sto per vivere oggi uno di quei momenti che, quando guarderò da lontano, tra qualche anno, avranno una luce e un sapore diverso. Oggi mi laureo. e oggi non mi sta facendo nessun particolare effetto, ma ogni tanto penso a quando dirò: e quel 21 ottobre, quando mi sono laureato? Magari lo dirai tra 2 anni, visto che 2 anni è di fatto il tempo che Elisa ha vissuto dal momento in cui ha avuto la prognosi, la diagnosi, e il momento in cui invece è salita sulla vetta, sui 6.000. Facciamo che proviamo a immaginare esattamente dove eravamo 2 anni fa, oggi, il 21 ottobre del 2009. Del 2009, 21 ottobre del 2009. Dove eravamo 2 anni fa? Sono le 16.23. Noi non eravamo qua 2 anni fa, Tiziano. No. Il 21 ottobre non eravamo. No, non eravamo qua e mi sa che non ero neanche in Italia il 21. Mi sa che non stavo neanche tanto bene il 21 ottobre di 2 anni fa. 349-238-6666. 2 anni fa, dove eravate? Lo sapeva bene invece dove era 2 anni fa Elisa. Pronto, Elisa? Pronto, ciao. Ciao, come stai? Bene, grazie. Grazie per essere qua e grazie soprattutto per non essere di Bergamo, perché abbiamo fatto un'infilata di storie praticamente da Bergamo e provincia. Tu sei di Viareggio, giusto? Sì, sono di Viareggio. E quindi, perdonami, ma veramente la banalità della domanda. Me la perdonerà, dimmi già che me la perdoni, Elisa. Sì, so già che cosa mi chiederai. Bene, allora rispondimi tu, com'è che una di Viareggio va in montagna? Oddio, l'ho detto. Perché se avessi avuto un babbo che invece di portarmi in montagna, forse quando avevo 5 anni mi portava in barca, magari mi sarei innamorato del mare. Ma ci vai anche oppure no? No, assolutamente, no. No, è un caso, penso. Sentimi, l'intro. Mi piace, è bello, immagino. Mi piace da morire la nonchalance con cui tu parli dei 6.000 che hai fatto e anche quando dici che in estate, così per tirarti su e per allenarti, facevi dei 4.000. Io sono quasi morto a 3.700 metri per salire sul... Non era il Gran Sasso? Cos'era? Era il Gran Sasso, Tiziano? Sul Gran Paradiso. L'hai fatto il Gran Paradiso, no? Sì. Sì, l'ho fatto 2 volte. Hai presente quando arrivi al primo rifugio? Non al primo, quello più in alto, a 2007. Sì, o lo Chabot o il Vittorio Emanuele. Lo Chabot. Io e Bonini eravamo allo Chabot. E la mattina dopo alle 5 siamo saliti per arrivare su e niente, io mi sono sentito un uomo di 90 anni che non riusciva più a farci. Spero che si chiamasse mal di montagna quella roba lì. Sì, si chiama mal di montagna. C'è il mal di montagna anche dopo i 2500 metri. Ah, quindi mi stai salvando. Può succedere. Senti, com'è arrivare a 6.000 metri invece? Quanto ci mette ad arrivarci? Dipende, perché dipende da quanto dislivello devi fare da appunto il campo base o quello che è il campo alto. Considera che in genere si considera circa 6 ore da quando ti svegli la mattina, che può essere 1 di mattina piuttosto che mezzanotte. Ma scusami, 6 ore per fare quanto di dislivello? Per fare 700-800 metri. Considera che sono gli ultimi? Sì, da noi in Italia, cioè in Italia nel senso a quota acuane si fanno, che so, 700 metri in 3 ore e ce ne metti 6. Dipende, insomma, poi da quanto riesci a camminare, da quanto riesci Di quanto tempo hai bisogno per acclimatarti a sta cosa? Cioè, quanto ci metti? Una settimana a fare tutto? No, forse anche di più. In Nepal è facile acclimatarsi, nel senso è facile ma è molto lungo, perché parti comunque facendo un trekking abbastanza lungo, magari di 10, 12, 13 giorni, quindi riesci ad acclimatarsi bene. Certo. È più difficile acclimatarsi quando vai sulle Ande, perché parti già da una quota elevata, arrivi con l'aereo magari già in un aeroporto di 3.000-3.600 metri, quindi diventa veramente più impegnativo per fisicamente. Immagino. Senti Elisa, come stai adesso? Benissimo, gli esami sono a posto. Sei tranquillo, devi fare controlli continui, immagino. Sì, però abbiamo già raggiunto la bellissima quota dei controlli ogni 6 mesi, quindi è già un bel risultato. Parli solo di quota. Sì. è tutto in prospettiva. Senti, era il 16 aprile del 2011, giusto? Sì. Quindi era il 16 aprile del 2009. Invece, visto che mi è venuto in mente prima, il 21 di ottobre del 2011, dove eri? Cosa facevi? Perdonami, sì, buonanotte, del 2009, sì. Allora, avevo ricominciato a lavorare da poco. Mm-hmm. Che lavoro fai? Sono veterinaria dell'ASL, però, non curo cani e gatti. Perché hai paura che ti chiamino? Sì, no, perché poi tutti mi dicono, bello un cane o bello un gatto, no. Io curo, cioè, noi controllo tutti gli alimenti di origine animale, quindi okay. Faccio controlli. Ok, ed è ritornata al lavoro, quindi, esattamente 2 anni fa? Ero appena tornata al lavoro, forse da una settimana, 10 giorni, da poco, perché sono tornata a lavorare più o meno verso la metà di ottobre. Ho capito. E se era un fine settimana probabilmente ero in montagna. E se no, senti, qual è invece il prossimo obiettivo? Qual è il prossimo 6.000? No, adesso no? Sai che siamo tornati dal Nepal, che io e mio compagno siamo stati diversi mesi proprio con una sensazione di appagamento, che non ci ha fatto venire stimoli per fare altri viaggi. Solo adesso cominciamo a progettare, forse torneremo in Nepal, magari però fra un anno, a ottobre. Ok. Elisa, senti, ti ringrazio moltissimo per il tuo racconto, che era magnifico, e per la tua storia. Grazie. In bocca al lupo per tutto. Credi, ciao Elisa, grazie. Ciao. Di fatto non ce l'abbiamo fatta. Dall'altra vetta siamo a 261 metri. Io ringrazio Bonini e Corleoni. Ti guarda, però sembro uscito dalla crisi del 29. Per ripropormi ogni volta questo file terribile che... Ma era un video questo, tra l'altro. Avevamo fatto un video, no? Dopo no, magari non lo ricarichiamo su Facebook, perché sono verde come la maglia, come questa penna. Voi siete qui. E giustamente nella foto che ci ha mandato Elisa non poteva che essere in montagna. È su una sorta di... come si chiama? Dove ci sono le pietre, una roccia, forse una morena, dice, mi suggerisce Bonini, ma non lo sappiamo. C'è della neve sullo sfondo, quindi probabilmente siamo vicino al ghiacciaio, forse. Però adoro lo stile di Elisa, perché è in tenuta da montagna, gli scarponi, ai pantaloni, dei pile, tipici pile da montagna, anche un cappello in testa con delle trecce. Però ha un foulard di un colore, di uno charme incredibile. Lo zaino in spalla e, credo, a mo' di scherzo, tiene in mano un ombrellino completamente rotto. 349-238-6666. Ciao, 2 anni fa ero su una sedia a rotelle. Ora sto bene, sono qui, Annalisa. 2 anni fa stavo scrivendo le ultime righe del mio primo romanzo e l'11 novembre lo presento, Alberto. 2 anni fa ero papà da 11 giorni. 21 ottobre 2009 stavo insultando un funzionario della regione Piemonte senza che avesse colpe, ma questo l'ho scoperto dopo. Parlando della questione di guardare la vita da lontano, guardare la terra da lontano, nella mia scarsa fantasia, avendo letto il racconto di Elisa che parlava di montagna, mi è venuta in mente una storia di mare, che ha a che fare non solo con lo stare lontano dalla riva, non solo con lo stare lontano dalla terra, ma lo stare al limite, in quel limite in cui si è abbastanza lontani dalla vita e si è un pochettino più vicini alla morte. Questa è una storia che riguarda una regata che, per la gente che va in barca, è una storia abbastanza nota. Nel 1998 si è tenuta una regata che si tiene tutti gli anni, che si chiama Sydney Hobart, che è una regata anche abbastanza breve, sono 620 miglia nautiche, una roba tipo 1100 km. È una regata che barche veloci fanno in un giorno e mezzo, due, e si tiene proprio tra l'Australia e la Tasmania. Tra l'Australia e la Tasmania però c'è uno stretto di mare che si chiama lo stretto di Bass, dove ne succedono di tutti i colori, in sostanza. Si regata in inverno, cioè in inverno per noi, là è la fine di dicembre. Insomma, nel 1998 la regata fu un disastro. Fu quella che i meteorologi definirono una bomba meteorologica. Ci fu una tempesta incredibile. Morirono delle persone. E in questo pezzo che sto per raccontarvi si racconta di uno di loro. Era un olimpionico di vela, era inglese e si chiamava Glyn Charles. Ecco, e ora, a 33 anni, Glyn Charles ha visto il sogno della sua infanzia trasformarsi nell'ambizione e nell'emozione consapevole di una persona adulta, conquistare successo e prestigio. Alcuni lo definiscono un perfezionista. È un compagno stimolante con cui condividere un'imbarcazione. Il suo allenatore per le Olimpiadi di vela è ancora più prodigo di elogi. Lo definisce uno dei più eccezionali velisti della sua generazione. Il suo progetto è semplice: raggiungere in aereo Sydney con la sua fidanzata, navigare, dare una mano ad allenare la squadra olimpica e tornare a casa per Natale. Glyn però non sa ancora che il suo amico australiano Steve Calmer sta per chiedergli di fare parte dell'equipaggio di Sword of Orion nella regata Sydney Hobart. Sarà la sua prima Sydney Hobart, un'occasione per incrementare il suo prestigio personale nell'ambito velico. E a bordo di Sword of Orion, Charles farà vela verso Hobart, ignorando completamente ciò che nel 1982 un progettista di barche aveva detto riguardo all'eventualità che un uragano si abbattesse su quella regata. Prima o poi, disse, una tempesta di 100 nodi, o anche più, sarebbe capitata. Magari tra 100 anni, magari tra 200, disse, ma di sicuro avverrà. Ecco, Glyn Charles lo ignora, come tutti gli altri. Ma la predizione di quell'uomo si avvererà proprio nel 1998, quando una tempesta di proporzioni bibliche sconvolgerà le imbarcazioni. Sarà il peggior disastro velico della storia, ancora più grave della Fastnet inglese del 1979, con vento e mare di intensità quasi doppia rispetto a quella vecchia regata. Nel 1979, dichiarano gli esperti, l'uragano durò 5 ore, ma nella Sydney Hobart soffiò per 2 giorni interi. Un numero di imbarcazioni verranno distrutte o abbandonate al mare, sballottate da condizioni meteorologiche tremende, come tanti giocattoli in una vasca da bagno. Venti a oltre 200 km all'ora, onde che raggiungeranno i 30 metri di altezza. Ci saranno momenti di indescrivibile eroismo, coraggio e vigliaccheria. Si vedranno piangere veterani del mare, persone come il miliardario Larry Harrison, proprietario di Oracle. Quest'uomo, dopo la tempesta, si presenterà ai giornalisti spogliato della sua superiorità, dicendo questa frase: che gareggiare comporti difficoltà è normale, che implichi pericolo no, che possa essere mortale assolutamente no. Io non mi avventurerò mai più là fuori, neanche se dovessi campare 1000 anni. Molti uomini moriranno nello stretto di Bass durante quella regata. Ciò che Glyn Charles non può ancora sapere è che sarà uno di loro. Il suo sogno di velista resterà nello stretto di Bass, non tornerà mai più a Portsmouth. The lights go on. Ero a Milano, ora sono a Roma. 2 anni fa avevo più soldi di adesso. 2 anni fa ero su Michigan Avenue a Chicago. 2 anni fa ero sempre qua con il fondo schiena posato sul sedile del camion. E oggi sono qui. Per lunedì, oggi stiamo finendo, però per lunedì lo faccio con anticipo. Facciamo questo piccolo gioco. Andiamo un po' più indietro di 2 anni fa. Andiamo a quando eravate bambini. La puntata di lunedì parla di un piccolo episodio di vita di infanzia, ed è la puntata di Marzia, in cui però si parla di come sembrava perfetto il mondo quando eravamo bambini. E allora sul profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia, io sono qui, facciamo un gioco, comincio a farlo io appena finisco il programma. Postate le foto di quando eravate bambini. Intanto tutti quanti le abbiamo digitalizzate, o male che vada io non le ho digitalizzate, ci ho solo fatto una foto con la macchina fotografica, e ne ho un bel po' di foto di quando eravamo bambini. Vorrei veramente riempire tutta la bacheca delle vostre foto con la faccia di voi quando eravate bambini, vale dagli 0 ai 15. Matteo Caccia, io sono qui, e questo è tutto. Grazie a Paolino Corleone, grazie a Tiziano Bonini, a Margherita Ina, a Stefano D'Andrea, e basta, li ho detti tutti. La storia di oggi era la storia di Elisa e parlava della vita vista da lontano. Quella di lunedì invece è la storia di Marzia e racconta del mondo visto da bambini. E così, a forza di discutere, mi inventai un falso reperto. Alla base delle statue il metallo aveva ceduto, lasciando piccole fessure dove potevi guardare dentro, nella cavità della scultura. Un giorno feci la faccia sorpresa dopo aver spiato con l'occhio incollato a una di esse e urlai: ho visto le ossa!